mezzanotte passa lento e zitto zitto chi cammina non c'ha fretta a mezzanotte. Si s'affaccia mezzaluna a salutar, a me basta mezza voce per cantar. So più cari sti sospiri che se vanno con la pupa carezzò. Che fortuna, c'è l'azzurro stella luna, per mercare c'è la luna. Che fosse la finestra in barconcino, e c'è sorrosa invece dei gerani, si la canzone chiave me vai bene. La codice solamente a te, cielo azzurro, stella luna, che fortuna, che fortuna. Tradimento, aspettavo e tu sei giunto, ma non soffro, rido e canto a tradimento. Ma se quella un altro cuore ingannerà, questa bacia accendo a mille me darà. Sì, l'amore nasce e muore, ma viene altro che felice del cuore. Che fortuna, che fortuna, c'è l'azzurro stella luna, quando mercare c'è la luna. Che passa alla finestra un barconcino, voce sorrosa invece da gerani, si la canzone di ode me vuoi bene. O la codice solamente a te, cielo azzurro, stella luna, che fortuna.